il tuo punto debole, riescono a carpirlo, capito? Sì, sì, sì, sono le stesse tecniche che usa la polizia poi, mi. loro ti fanno quelle domandine e sanno qual è il tuo punto debole, no? Allora premono su quello e continuano a chiederti cosa c'è particolare. Ehi, ehi, ma infatti questi siti di incontri, la gente si è rincoglionita comunque con questo digitale, con questi smartphone. Cioè, una volta ci si incontrava in piazza, ma voi ve lo ricordavate quando la piazza ancora a fine anni 80 arrivava in via Bellini, da via del Trento, dovevi sgomitare per riuscire ad arrivare in piazza, pieno, pieno da fare schifo. E conoscevi le persone di persona, cioè, non tutte queste trappole digitali, stamenate, sesso virtuale, ma andè a cagare, come ci dicono. Beh, se tu pensi che ci sono persone che fanno praticamente sesso virtuale online, senza nessun tipo di contatto fisico, ti ho detto tutto, ora ci vai a fare in piazza, se la rimorchi cosa fai? Te la conti da una cabina all'altra. Si è aumentato il segnale, questo è il segnale tuo, ma tu sei, vabbè, porca miseria. E io sono io, e vuoi il segnale, vedi un po' così, ce n'è. Ma mi ricordo che quando tu arrivi con questo segnale che da me è ottimo, gli altri ti ascoltavano basso, ma sei sempre in antennino tu, quanto? No, io adesso sono in campagna, sono con la mantova, anche se i radiali sono appoggiati al tetto, però la mantova c'è. Ah, ok, dai, hai migliorato già la situazione, buono. No, sai cosa mi hai ricordato? Quel film che hanno dato l'altro giorno, notte prima degli esami, ha visto gli amici che tramite una cugina fanno la trappola al loro amico, che si denuda in chat, no? E lo prendono in giro in diretta. Notte prima degli esami, oggi, no, quello più moderno. Vai! Dai! Non so se ve ne siete accorti, ho attaccato un altro apparecchio. Stai arrivando più forte di radio, almeno da me, io segnale non ne ho guardato. Kappa, questo qua è superstar, dai. Ogni tanto bisogna farli girare tutti, anche perché c'è poca gente e erano un botto di tempo che erano fermi. Ma a proposito di poca gente, ma che fine hanno fatto tutte? Tutti hanno le ville al mare, a Porto Cervo, a Costa Smeralda, capito? Non c'è più nessuno, qualcuno solo in T3, qualcuno in PMR. Ho capito, no, perché ogni tanto mi capita quando dentro al lavoro la sera accendo, ascolto, ma non c'è più nessuno da nessuna parte. No, infatti no, ma manco a spenderci soldi per un microfono di ricambio. Al mare, anche non ci va a fare la faccia. Già la voglia un po', c'è stato un calo. Vedremo poi in autunno. Gianni, riprendi tu, dai che vado bene. Ci siamo calpestati, Marco. Ho detto tu non ci vai a Platamona a prenderti gelata, a farti la passeggiata, eccetera. Qualche volta già a Platamona, un po', magari qualche volta scendo a Castel Sardo, qualche volta ad Alghero. A Platamona sono da un po' davvero che non ci scendo, anche perché Platamona ci scendevo durante la settimana, ma questa è una settimana preferie, quindi quando rientro sono già sballato. Io l'altro giorno sono sceso e ho trovato a tuo fratello. Ma mio fratello chi? Cristian? Scappa! Lui ci va spesso, con amici, va molte volte a pescare, e lui già ci bazzica. No, che è l'attore! Stava aiutando l'attore, sono amici, ha detto col figlio. Ah, sì, no, è proprio amico di Tore lui, di Tore Pirat. Sì, sì, sono amici. Sì, me l'ha detto che l'aveva invitato, c'era qualche sagra forse, che Tore doveva fare non so che cosa, dice, mi ha detto, infatti mi ha detto ci vieni, tu gli ho detto no, qui, quando rientro a casa ho detto su chi ballando. Ci siamo trovati lì a Platamona, capito? Bene, bene, no, lui già ci va spesso, già. Capo, avanti chi vuole entrare, avanti. Ma la batteria scarica ciò. A basso stai uscendo, non tu, perché mi vedo lo strumento che non va. No, io ti sento benissimo già, stai uscendo bene, non preoccuparti. Come mai non sale lo strumento? Di solito andava a fondo scala quando parla. Non so cosa dici, stai uscendo bene, io ti ascolto benissimo, il segnale è buono. Avanti, chi è? Avanti, buonasera. È molto basso, sì, chi sei? Non lo sento più, è basso. Io per un attimo ho sentito, buonasera da Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Sei Giuseppe da Pollottore, se sei al mare, ma sei senza antenna. Poi non c'è nel QRM, zero, perché non me lo copre. Ecco qua, hola, hola, perché stavo parlando a voce bassa. Ma pure tu. Sì, io ti dicevo, vieni avanti. Io ti sento, riesco a capirti, però il segnale non è praticamente niente. No, sì, segnale 3 per volerti bene. La radio si capisce, ma ogni tanto come si solleva il QRM ti perdo. Prego, figurati, buon proseguimento anche a te. Riprendi già. Ecco qua, segnale ce n'era. Non arrivo con H1, niente. No, qua è 3, però ripeto, ogni tanto è la radio al basso, ogni tanto come sole va il QRM lo perdevo. Però sto produttore, se, cioè per arrivarmi 3 in oghi, io produttore ce l'ho, si può dire che lo vedo benissimo da qui, sicuramente senza antenna. E che vuoi che ti dica? Se virai scendi con un portatile, con un watt, che non è possibile, Davvero, produttore, se per questa zona va, tutto mi puoi dire, posso anche non ricevere quella di busso di Alghero, però so produttore, se queste zone qui la devo coprire per forza, se no ti bussano un po' tutto. Ma la vado, ma l'hai restaurata? Ehi, no, nel senso che sì, la stavo restaurando, però non ho mai trovato la base e quindi ho praticamente il piantone con solo due radiali, perché gli altri c'erano tutti rotti così, ma l'avevano data così. C'ha gli incastri per i radiali rotti. Sì, tutti la parte in alluminio dove incastrano i radiali ne ha praticamente 3 rotti e 2 così. Uno è intero e l'altro è un po' così, però sono uscito in filaccio radiale lo stesso. Peccato, l'ho dovuta modificare, cioè nel senso che ho dovuto togliere lo stilo, l'ultima parte, metterne uno più corto, allungargli la bobina per poterla tarare, capito? Sennò è un casino. Con due radiali andava benissimo, facevo 10, facevo tutto, con due radiali andava bene. Non aveva nessun problema, Antu. Andava benissimo. Comunque me ne accorgo, questa qui è sorda, perché tempo fa ne avevo una di un amico che stavo restaurando, gliela stavo restaurando, l'ho tramata ripulita, sistemata, fatta, l'ho provata qui e l'avevo piazzata alla stessa altezza di questa, tanto ma c'aveva una ricezione già, non faceva, sentivo di tutto di più. Poi l'ho smontata per spedirgliela, che gliel'ho mandata a Torino, e ho piazzato questa, ma ho notato subito il cambiamento. E allora stavo controllando una cosa, e c'è che sta diventando lento per protezione, boh, non capisco il perché. Sta assorbendo troppo, aspetta che abbasso un po', andiamo bene così. Dicchia, te 50 ampere questo che c'ho io, ne assorbendo troppo, non penso. E allora siamo già provando l'alimentatore, c'è ben protezione, o c'è un corto, o c'è un extra assorbimento. Buah. Così, queste cose elettroniche, ma cari dai. Ecco, adesso l'ho riattaccato, vediamo un pochettino. Ora. Ma da quando avevano deliberato la concessione, ce n'è gente che ha iniziato a modulare, no? No, assolutamente, la cosa più giusta è adesso, anche se uno non modula, lasci lo stesso l'apparecchiatura, perché tanto non devi pagare nulla, non ti chiamano da mangiare né nulla questa apparecchiatura. Vabbè, però cosa devi comprare già a faccia, dopo non ci parli, cioè roba da niente. In ogni caso, anche prima, se non le utilizzavi, le tenevi staccate dentro un mobile, mica ti chiedevano la concessione. No? E lo so, ma adesso le puoi tenere anche attaccate. No, ma comunque secondo me da una parte è negativo per nulla fare di non pagare, perché prima eri tutelato, adesso cavolo, cosa dici se disturbi a qualcuno? Io pago la tassa come la paghi tu, non lo puoi più dire. No, non lo puoi più dire, gli dici un'altra cosa. Ma prima che vengano a saperlo loro, lui. Ma perché già prima tutelati eravamo? Alla fine si basino a pezzi, come vedono antenne. Allora a me non me la volevano far piazzare il condominio, l'antenna. Quando sono andato alla scomposto e mi hanno detto, lei la piazzi, se ci sono problemi chiami a noi, così mi hanno detto. Anche quella però è una risposta sbagliata già. Lo so, però così mi hanno detto e così ti sto dicendo. Perché comunque una persona che paga la concessione deve essere tutelato prima, non dopo. Nel senso, tu non è che puoi dire piatta l'antenna se poi ti rompono la faccia chiami me. No, tu chiami me, io vengo, gli dico che tu l'antenna la puoi piazzare, non il contrario. Ma non si espongono, ho capito. Lo so che non si espongono, solo ma non devono rompere i coglioni. Vabbè dai, lo so, purtroppo è così. Anche se poi rompono i coglioni fino a un certo punto, perché poi trovano una proprietà privata e non c'entri manco se ti ammazzi, perché ti vedo con la telecamera da un chilometro di distanza del cancello e ti mando a fanculo. Domanda. Un attimo. Vai. Allora, prima, avendo la concessione, pagando i 12 euro, quindi avendo fatto la DIA, dichiarazione di utilizzo dei 12 euro, in caso di controlli ritenuto a farli entrare, no? Mentre chi non aveva fatto domanda, cioè per effettuare le verifiche, vabbè, mi sto impappinando. Cioè adesso come funziona? Tutto come prima? Cioè come fanno loro a sapere chi ha il baracchino, che si è abilitato a modulare, se non c'è più DIA, non c'è più bollettino? Ma prima addirittura doveva avere anche il certificato penale pulito, se no non te ne dava. Infatti Marco, adesso non dite più, non ci vuole la concessione e di conseguenza non sono tenuto a dire che io ho un apparecchio e che lo uso per modulare e quindi non sei tenuto a entrare in casa mia, anzi non sei tenuto neanche a sapere quello che faccio io perché è una violazione della privacy. La domanda mia era quella, no? Prima quando avevi la concessione, no? Cioè si riservavano di fare controlli, ma adesso che non c'è più, no? Nel concessione il bollettino, cioè se sei tenuto a farli entrare, presumo di sì, perché tanto dice se non li fai entrare tornano col decreto ed entrano lo stesso. E poi un'altra cosa che mi sfugge, aspetta, porca miseria, cosa era, dove volevo arrivare? Per me c'è qualcosa di sotto, Antonio, se capisci una cosa ti fai pagare doppio un'altra, verrai lì, come le tasse, ti tolgono una tassa e ti fanno pagare l'altro. Vabbè, già, cosa mi possono far pagare di più? Ma che vadano e facciano quello che devono fare, cioè, ripeto, prima di arrivare a casa mia ho 3 km di viottolo, di strada privata, con tutto di cancello chiuso all'ingresso della strada privata, intendo, e dopo un altro cancello, ho telecamere, prima che arrivino qui mi hai voglia tu. Ma fa? Puoi venire anche con catimbare e ti piace, di barri chi vai, più manni so, più in culo mi ti entri. Poi se c'hai un cano, un paio di cani da battaglia. Non mica ci vogliono cani, basta fargli vedere la faccia di 2 o 3 amici e subito si innalza, sono meglio di cani, Marco. Oh scusate, ho una telefonata di lavoro, è stato un piacere, un bacione, a dopo. Sì. Naturalmente io mi faccio queste seghe mentali, ma qua, cioè, più che ricevi Torino e i 40 canali, 3.009 non trovi, cioè non è che ci abbia chissà che cosa montato, piazzato, vabbè, però mi è sfuggito il discorso di prima, volevo arrivare a un'altra cosa, però purtroppo caso Alzheimer mi è passato di mente. Eccomi, se mi avete chiamato io sono rientrato, questa è ancora l'altra palazza. Questa è più corposa, più bassia. Questa è la modulazione del ZG Modification AMOA. Ah ecco, no, mi era venuto in mente, comunque a parte che non fai la DIA, non paghi i 12 euro, però valgono sempre le regole precedenti, non parlo di baracchini CE, di baracchini omologati, non bisogna essere nelle condizioni ostative, cioè avere avuto condanne penali gravi, per reati gravi, ma gravi, gravissimi, non so, omicidio, cioè devi avere anni di galera alle spalle, ecco. Oppure condizioni ostative tipo processi penali in corso. Io sapevo che erano quelle le condizioni ostative, dove non potevi, credo anche senza fare, anche senza DIA, senza bollettino, quelle rimangono, capito? E quelle c'erano prima quando facevi la domanda per presentare certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza italiana, eccetera eccetera, marca in marca da bollo, certificato penale, insomma dovevi fare un bel certificato per fare la prima domanda che ho fatto era questa. Eia. Sì, prima il penale, adesso non ci vuole, però se ci sono le condizioni ostative ognuno lo deve sapere, no? Per esempio, che ne so, Graziano Mesina, presumo che Baracchino non ne potrà mai toccare, né ora né mai, sempre che lo trovi, no? Chissà dove, in Dizekid. Sì, non lascia fare più, lui ha paura di rientrare dentro, si l'ha fatto truppa, quindi sa cosa vuol dire, io la mia vecchiaia me la voglio passare fuori. Ma io non capisco, lui aveva risolto, no? Cioè, come uscito poteva fare passarsi la vecchiaia tranquillo, no, è andato a fare peggio che peggio. Boh, chi gliel'ha fatto fare a lui? Cioè, per stare una vita intera a nascondersi, ma per carità. Ma lui stava già facendo la guida turistica, capito? Faceva già la guida turistica, Marco. E poi dopo perde il pelo ma non il vizio, qualcosa la doveva combinare. Era già pagato come guida turistica, stava anche bene. Però se stava bene voleva stare ancora meglio. Punto a capo adesso. Ma avevano ipotizzato anche che ci fosse suicidato, sai le notizie farlocche della nuova, poi hanno smentito però, ma avevano pensato anche a quello, che lui, stanco di scappare, non ce lo vedo però un tipo del genere che pensa all'insano gesto, non credo proprio. Magari la mattina di una testa dice chi me lo fa fare, se mi prendo non mi devo fare altra galera. Provarsi pure, chi lo sa cosa c'è nella sua testolina. Furbo il furbo come una volta. Mi ha fatto ridere anche quell'articolo sul giornale, no? Dell'avvocato che diceva, ah, che strano, avvocato, credo sia una donna, vabbè, avvocato generico. E cioè, che strano, fino alle 4 eravamo assieme, e gli avvocati restano due strisce, fanno finta di essere sorpresi, ma riprendi Antonio. Antonio non c'è più. Forse è andato via, forse si è assentato. Comunque questa radio ti piace? Sì, bene o male tutte, preferisco vabbè Galaxy e i soliti, no, quelli proprio effetto presenza, questa c'ha un po' più di bassi, un po' più corposa a me, però niente da dire già. Sì, ma un microfono da Android elaborato questo qua, non è che sia niente di che. È un microfono che se cazzo ci aveva anche, hai visto nel tastino del mic che ci sono quei due piedini che vanno incastrati nei buchetti per la portante, però lì uno di quelli era spezzato e deve essere che era fradicio da quanto ce l'aveva. Allora cosa ho fatto io? Mi sono armato in buona volontà, ho preso un chiodino piccolo, l'ho scaldato con le pinze, gli ho fatto un buchetto piccolo e gli ho infilato una vite autofilettante. E adesso dall'interno verso l'esterno, di modo che faccia da piedino. Eia, eia già, mamma mia, sta aumentando, io sono mutande e ho anche la ventola soffitto, eppure, sai cos'è, parlando ci si scalda. No, io sono bello rilassato, dico la verità. No, io sono rilassato perché con l'aria condizionata si sta bene, poi non ce l'ho diretta perché l'ho messa quella nella sala che poi ho aperto la porta della camera da letto e entra lì e di lusso. Sta proprio lavorando bene. E penso che dormito chi buffa e non senti. Arrivo subito, già dai. Veramente il colmo. Ciao Marco. Ah, ciao Giulio, sei entrato anche tu. C'era Gianni, Antonio Riserva che poi non ha risposto, forse è lontanato. Gianni c'è ancora. Eia, ci sono. Ho detto il colmo, cioè sono nella stanza a fianco e mamma per chiamarmi, per non chiamarmi a voce mi telefona. Tutto è il colmo del colmo. Vabbè. Sei la tecnologia, ma anche quella, c'è poco da fare. Fitto, per non fare lo sforzo di alzare la voce e chiamarmi a il colmo dei colmi. Vabbè, lì non c'è la volontà di fare Schumper. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Marco, ciao Gianni. E tu piazzati un baracchino nella sua stanza, così poi ti chiama. Sì, sì, poi per dirmi le cose che mi ha già detto tre volte. Bella estate che sto passando, vabbè. Dipende anche da me comunque. Ok. Vabbè. La mia radio sto facendo bene, perché ho un problema al carriere. Bene, bene. E secondo di come la muovo, esce tutta bisestrata. Ma quell'effetto che ha fatto già un paio di volte? Sì, guarda, se è che non te lo posso far sentire, registrare e far sentire, proprio si va distortissimo, sembrava uno splatter, ma forte di audio, fortissimo, una cosa fuori scala proprio. Sì, mi sono ascoltato e quando metto un po' di potenza, diciamo che mi fa quel difetto lì. Non sempre però, poi magari do un paio di volte giro il mic gain e tutto ritorna normale. Così è, vabbè, forse è sporco, vorrà messa un po' di quel disossidante nel potenziometro, non lo so. Non so se sia solo disossidare, però sì pure. Gianni, riprendi tu, dai. Sì, a capo. No, ti ho sentito che mi salutate, solo che non ho avuto il modo di salutarti io, ti ho salutato. Vabbè, non è un problema, figurati. E meno male che stasera c'è qualcuno in frequenza, perché diversi giorni che non c'era più nessuno, sarà per quello che fa difetto questo accidente del potenziometro. Ripeto, alle volte lo giro e sparisce tutto, e altre volte invece magari esce tutto messo male, ma comunque, meglio per lui, buttiamo via tutto. Sì, da così forte. Sì, e cosa vuoi fare? Certo. Non è che se si dovesse bloccare, non è che mi metto a riparare questa radio qua, no? Cosa? Non ne vale la pena, oh già, anche se è nuovo, però i suoi anni ce li ha. Che radio è questa? È il 44. Già vanno bene con le radio, solo che poi i componenti sono fusurati col tempo, quindi normale che sempre qualche problemino te lo dico. Appunto. Si sa, i componenti invecchiano, è normale, ma comunque, pazienza, quando non si blocca vuol dire che tireremo fuori un altro, e ciccia, se no se ne compriamo un altro. Avanti Marco. Ehi, porca miseria, io mi devo tagliare la barba, spuntare i capelli e non l'ho fatto. Pazienza per oggi, lo farò domani. Tanto qua le giornate sono tutte uguali, mi puoi. Quando si sta a casa non passa più la serata. Con Gianni saremo già un'ora, Gianni, o di più. Sì, forse è molto di più di un'ora. Diciamo che sono andato io, Giulio, facendo break, questo e quell'altro, mi ha sentito male, è entrato anche lui, poi è entrato anche in riserva e poi si è entrato lui. Ok. Vabbè, dai, dunque. Vabbè, lo stesso, se la gente non entra, non è che ci possiamo fare niente. Pazienza. No, in un primo momento pensavo che fosse il microfono, perché prima avevo attaccato l'MB più 4, adesso c'è il 60, e pensavo che fosse dalla batteria scarica, invece no, l'ho messa a nuovo la batteria e non. Però no, adesso in questo momento c'è il 60. Vai già. Ma adesso va bene, non c'è niente, adesso è perfetto. Ok, lo so. ma se tiro su magari un po' di potenza e magari mi fa di nuovo col difetto. Ma comunque, a me va bene lo stesso, tanto con 7-8 watt va bene ugualmente, non è un problema. Avanti Marco. Ma mi sono un po' distratto, dai. Devo fare una commissione, qua mi si pressa, non vai. Ti volevo andare col fresco, più tardi possibile, no? Prima delle 8. Anche oggi è fatto molto caldo, anche oggi. Vabbè, io non è che lo sento molto, intanto lo sto uscendo, per cui non mi interessa più di tanto, anche se dovesse fare caldo fortissimo, a casa già so bene, problemi non ce ne sono. Vabbè, comunque, sarei voluto uscire anch'io, ma cosa riesco a fare per andare dopo? Non ti puoi avvicinare a nessuno, devi stare con la mascherina, col caldo che c'è, col sole, eccetera. Tanto vale, me ne sto a casa e non esco. Vai Gianni. E lo avete sentito che i casi stanno aumentando di nuovo? Appunto, tanto maggior ragione per stare più attento, maggior ragione per stare ancora più attento. Purtroppo la gente scellerata, hai visto, non gliela frega niente. Stiamo tornando indietro, anziché migliorare la situazione sta peggiorando. Speriamo di non ritornare a come eravamo quei mesi passati, addirittura tutto chiuso, in quarantena che non ti potevi nemmeno affacciare la finestra quasi quasi. Il discorso è sempre quello. La gente purtroppo è un po' scellerata, anzi un po' molto, soprattutto i giovani. Hai visto i giovani, dice che non li prendeva i giovani, adesso prima era uno ogni 80 persone, si ammalava un giovane, oggi invece è uno ogni 8 persone. Incredibile la movida, vai a fare la movida, vai, è a puttidini e poi verrai. Avanti Marco. Vieni qua, c'è fresco. Beh Claudio, la paura mia è che si possa essere rinforzato il virus col passare dei mesi e quindi becca anche giovani, capito? Mi pare che anche un bambino piccolo era addirittura incontinente, non so se fosse morto, poi bisogna vedere se sono notizie vere. Vai Claudio. Allora, sono entrato a salutarvi così, giusto per... sto ascoltando da poco fa, sono qua al fresco, si sta benissimo, ogni tanto una rinfrescatina, non ascolto male Gianni, però è tutto saturo, basso di radio, saturo, non so se dipende da me, Ciao Giulio, e a me non mi butti la volta, adesso rimango qua, poi si vedrà, se a settembre, ottobre torna alla normalità, va bene, se no vedo Rubio a Sassari. Gianni, prova a parlare, perché io ti sento male. Boh, non lo so, guarda adesso a vedere, ho regolato il microfono. Oh, se sembra una gira di saturazione, non so se si è agganciato, boh. Non sono agganciato. Prima sì, però, dai, si sentiva. Io adesso non sono agganciato, prima è palese, adesso non sono agganciato. Che cazzo c'entra? Io ti ho detto poco fa, non adesso. Vuol dire poco fa, quando ti stavo ascoltando male, avevi qualcosa di agganciato e quindi di saturo. Adesso stai andando bene. Vabbè dai, divertitevi, buona serata. Tanto il tovaracchino a vedere, ho goduto pure dai nodi, tanto non mi mai nessuno, è acceso la stamattina alle 7, cazzo mi. Adesso vi ho sentito, chi si è entrato un cane a fare due chiacchiere. Vabbè. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo, alle prossime. Giulio, è un problema che fa quella radio, tu forse la prima esperienza che hai con quel tipo di radio, io ne ho avuto 8 con questa che ho, e alcune l'hanno fatto quel problema, perché quella radio lì, oltre a fare il problema che ben conosciamo, fa anche altri difetti e uno di quelli è proprio quello lì, capito? È proprio quello lì. Quindi cerca di usarlo, di muoverlo il più possibile, perché anche lì dove c'è il sistema del carico ci sono dei componenti che vanno a farsi fottere, va bene, dai, che fanno parte appunto del circuito di alimentazione, della scheda di alimentazione, di preamplificazione e di potenza. Ciao. ciao, ci sentiamo, riprendi Giulio QRT, dai, alle prossime. Ok, qua. Vabbè, pazienza. No, perché funzionare, come vedi, sta funzionando bene, però se magari se aumento la potenza può darsi che comincia a gracchiare. Io un primo momento pensavo, anche tu l'altro giorno mi avevi detto che sei che ero gracchiante, io pensavo che fosse la batteria dell'MB più 4, e invece poi cambiando microfono mi sono reso conto che non era la batteria. A parte il fatto che poi la batteria l'ho comprata, l'ho riprovata e fa quell'effetto lì. Adesso, quando aumento tutta la potenza del carrier, a un certo momento può incominciare a fare quel difetto lì. Però le do una giratina a destra e sinistra, a destra e sinistra un paio di volte e magari si riprende. Non so, forse la cosa che si è consumata del potenziometro, che ne so, ma comunque, meglio per lui. Se vediamo un baracchino nuovo non se ne parla più, oppure ne tiro fuori uno di quelli che mi sono rimasti, perché ne ho già fatto fuori quattro, ne ho fatto fuori, e piano piano sto facendo fuori tutti, tanto cosa me ne vuoi, tutti questi baracchini, non mi servono a niente. Va bene, dai. Avanti Gianni. Infatti anche la KB23 è dato. La KB23 no, quello non lo do, no. Quello me lo tengo. Anzi stavo pensando di spostarmelo nella parte bassa della casa, così almeno per non stare a salire poi le scale per vedere se c'è qualcuno. E volevo mettermelo giù, tanto un alimentatore da 3A ce l'ho. E dunque potrei utilizzarlo anche giù con una prolunga chiaramente per l'antenna e tenerlo così acceso in ascolto per sapere quando c'è qualcuno. Ma visto e considerato che in questi giorni era proprio silenzio assoluto, anche di quello ho rinunciato a fare. Vabbè, comunque andavelo mattessi. Avanti Marco. I regali non si vendono. Assolutamente. Avanti Marco. Allora, adesso vabbè. Dai, mi preparo a fare sta commissione, tanto ho visto che qua. Dai. Rimango all'ascolto e mi preparo, mi vesto, dai. Gianni, oh, dimmi. Tu lo sai che io, se tu l'hai conosciuto, il baracchino, che poi non è un baracchino, ma l'hanno dato come baracchino, ma è un base della standard, monobanda VHF a 220, standard, di Giancarlo Baffigo. Tu lo sai chi era Giancarlo Baffigo, produttore? Sì. Racconta quanti anni ho io quella radio, ho avuto offerte, tu immaginati che il nostro amico comune, che poi, va bene, il nostro amico comune, che tu ben conosci, collezionista, quella radio non ce l'ha, mi ha offerto soldi, un bel, e cambi di radio a Gogo, non gliel'ho mai dato, mai, introvabile. Giancarlo era radioamatore, quello è il primo VHF che lui ha usato, base della standard, monobanda, 220, canalizzatomi, non digitale, canalizzato, a quarti, fatti il conto tu, funzionante al 100%, io non l'ho mai dato, quindi io sono del parere che i regali, le cose effettive non si regalano, non si vendono, anche se te ne vuoi disfare, le metti da una parte che non ti danno fastidio, le conservi, come ho la radio di Carlo Titano, come ho un ricordo piccolo ma abbastanza consistente di Giampaolo, come ho tante cose che mi hanno dato e non le ho mai date, perché non si danno. Ok, dai, vabbè, ti mando in ascolto, no, non ne ho voglia, dai, sono entrato a salutarti. Stasera c'è l'Atalanta o Giulio, guardatela perché era una bellissima partita. Sì, beh certo, la guardo sì, e con piacere anche, perché l'Atalanta mi piace come gioca. E poi spero che riesca anche a passare il turno, speriamo bene, ma sarà molto difficile, molto ma molto difficile, però non è detto ancora, ancora non ho perso, staremo a vedere. Sì, ma è così, i regali non si devono vendere, ci mancherebbe altro, assolutamente, che puoi vendere, tanto per dire, perché li ho praticamente regalati, guarda. Però a ogni modo, tanto quello me ne vuole. Sì, qualcosina ne ho ricavato, ma proprio a livello di spicciolame, senza niente di particolare. Uno addirittura tre di colpo se l'ha preso. Un camionista, chissà poi cosa se ne va via, tutti e tre, comunque, le ha volute, non c'è problema. Va bene, va bene. Avanti Gianni. Adesso sta facendo il commerciante, la falegname sta facendo il commerciante. Ma cosa commerciante, ui. E gli hanno dato il blocco perché ne avevo le scatole piene di stare sempre spostando da un posto all'altro, da un posto all'altro. Ui, ma una mattina stavo parlando al baracchino con uno di fuori. Ma ha sentito questo camionista. Ho sentito, mi ha detto, ma li vendi a me? Sì, te li vendo, perché no? Gli ho fatto vedere alcuni, gli ho fatto vedere. Ho detto, dammi questi tre così. Ha fatto un'offerta, l'ho fatto. Ha detto, ma sì, stai prendi, te ne vai, tanto quella me ne porto. Non me ne fregava più di tanto. E gliel'ho dato. Mentre l'altro invece l'avevo regalato al famoso nipote. Vabbè, comunque. Va bene lo stesso. Avanti Marco. Marco è andato a fare la commissione, sono sentito che ha detto che si stava allontanando. Sì, allontanando si stava, dalla gamba dall'altra si stava allontanando. E così è già. Vabbè, comunque. Alla fin fine poi, quando facciamo il giro, sembra che ci sia, che continua ad esserci gente, alla fin fine se vediamo un 3009 o un 5555, va bene lo stesso, tanto è la stessa cosa, più o meno. Va bene lo stesso, quelle quattro chiacchiere si fanno ugualmente. Giulio, io avrei preso un 3009, quel baracchino lì non è perfetto in tutto, ricezione, c'è una ricezione che è tremenda, guarda, non c'è nessun altro apparato che riceve così, poco prima stavo usando il base della Intec, che Roberto lo vanta per la ricezione, boh, nemmeno a paragone con le 3009, il 3009 c'ha tre volte più, molto più chiara e molto più forte come ricezione. Sì, ma lo so, 3009, ma io l'ho sempre consigliato, 3009, 170 euro, ve l'ho visto anche ieri, l'ho visto, stavo guardando, 170 euro costa, nuovo, 240 canali mi sembra, spero sì, vabbè il numero di canali poco mi interessa, tanto chi li usa quei canali, insomma, va per dire, no? Anche banda laterale anche eccetera eccetera, 4 watt e 12 watt in banda laterale, la potenza, e va più che bene, no? Non è un problema, se poi mi serve potenza ci vuole poco, basta comprare un 747 e è risolto anche il problema di quello, ma non me ne serve potenza, tanto a me non me ne frega niente di arrivare fortissimo, basta che mi senta, va bene ugualmente già. Ma infatti poi 747 non conviene più, se costa 98 euro qua a Sasse, con lo sconto 90 euro, ma c'è KL, quello che ha preso Marco, che ha lo stesso interno del 747, è uguale identico praticamente, internamente e esternamente, solo che rimane blu. Sì, lo so. Sì, lo so quale stai dicendo. Ed è anche bello, esteticamente è anche bello. Sì, bene, vabbè, Assassin, ma Assassin intanto non lo comprerì, non lo comprerì assolutamente. Una telefonata mi da Amazon, in due giorni ce l'hai a casa. Tu pensa che mi voleva regalare il baracchino mia figlia? Ho detto, quasi, perché l'ho detto l'altro giorno, no? Quasi, questo me lo compro. Te lo vuoi, prenditelo, se lo vuoi te lo regalo io, te lo ordino. Aspetta che quando succede Amazon, già c'è Amazon, a voi già se c'è. Allora tu Lucio, no, lascia perdere, non è Giulio, lascia perdere che già ne ho, no, non è il caso, per dire no, se volevo ne potevo anche approfittare, ma non mi è andato lì, assolutamente lì, di andare a spendere soldi per una cosa che ho già su quella frequenza. Sì, ma infatti, viene abbastanza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 ne sono rimasti a me. 8 ne sono rimasti a me lo stesso, ne avevo 12 tutto. Adesso sono 8. Vabbè, comunque, 4 li ho dati via, ma dovevi anche quelli, se capita, dovevi anche quelli. Così almeno elimino uno scatolone, elimino. Perché mi dà fastidio, devo stare sempre postando, uffa, che rottura, perché nella parte dove abbiamo tutte le cose conservate, no? Tipo, cioè mi spiego, sul Mansardo ho fatto una parte, l'ho travesata e ho fatto una specie di stanzino, no? Per tenere le cose che sono buone, che magari non butti mai, però se non li butti mai e non li usi mai è come non averli. Dunque, alle volte devi prendere una cosa, devi stare a spostare quelli, devi stare a spostare un mucchio di cose per trovarne un'altra. Sicché se io incomincio a liberare e a svuotare, la cosa poi mi viene più facile, no? Non ti sembra? Svuoti lì e devi portare a pugno. E per quello non è che diventa ricco, cosa me ne frega di andare a... Non è che... Bah, figurati se sono pensato a quello. No, vabbè, non sono a quel punto già soddisfattamente in quanto a quello così lì. Per cui non miro proprio a questo, infatti non ho mai venduto niente per quel motivo lì. Questa è la prima volta che poi non ho vendita, questo è stato un regalo praticamente che gli ho fatto con la vendita. Ui, vabbè dai. Comunque, tu pensa con quelli generato 3 non ci uscirebbe nemmeno il 3009 ci uscirebbe con i soldi che ho ritirato da quei 3. Ah, sì, vabbè, tanto cosa devi fare? Rimangono lì fermi, magari si guardano così senza usarli, invece quello se li usa e li porta avanti, li fa vivere. Infatti, ce n'era uno che era nuovo, era senza un graffio, senza niente, e poi a forza di spostarlo e fare, guardate, ed era tutto quanto graffiato, graffi leggeri, d'accordo, tu mi dirai, basta togliere il coperchio, lo rivernice di nuovo, sì, è vero, questo sì, però, intanto per dirti, no, puoi avere una cosa e non usarla, è come non averla già, non te ne vai nulla, ecco, dai. Oh, vabbè, comunque, peccato che non voglio uscire, ho la bicicletta anche, ho la bicicletta da uomo, una bicicletta, una 26 da uomo, da passeggio naturalmente, no? Che sarei potuto uscire, fare un giretto qui, perlomeno qui nella zona di casa stesso. Cosa fai? Non ne vale la pena, infatti le gomme sono tutte sgonfiate, magari saranno anche marce, vorranno sostituire le gomme, che ne so, boh, vediamo un po' cosa farne. Ecco, a questi livelli, queste cose così già, ho fatto uno stanzino per tenere certe cose utili, però sono tempo che non utilizzo mai, e dunque no. Il giorno che mi gira poco, faccio lo svuota cantine. Sì, vabbè, io ne stavo cercando uno di guardatino anche vintage, per metterlo nel cassetto della macchina, ma piccolo, però è che vada bene. Stavo pensando all'HP23, adesso ci hanno solo di fronte che me lo sta portando, uno che ce l'aveva. Adesso vediamo se ci sta, perché se no non le mette in macchina. Ma io avevo 2,78 plus. Alan 78 plus, adesso me ne è rimasto uno, però uno che mi è rimasto non funziona, e ho dato quello che funzionava, ed era piccolissimo, che quello ci sta anche dentro il cassettino della macchina, ci sta, solo che quello non funziona, me l'aveva bruciato il fulmine, penso, insomma, il temporale di qualche anno fa. Ne avevo due, però appunto fra questi tre che ho dato a quel tipo, gli ho dato anche quello, gli ho dato. Funzionanti, tutti e tre funzionanti, tutte e quattro comprese quelle che ho dato al nipote. E dunque tutti e quattro funzionanti, ma anche quello, boh, infatti avevo intenzione di ripararlo, avevo intenzione, quello 78 plus. Magari lo mando fuori, lo mando da quel Flamec in Calabria, ma non so se ne vale la pena, costa 118 euro nuovo, già, non ne vale la pena spedire, paghi la spedizione, paghi la riparazione, non ne vale la pena, tutto sommato, nuovo costa 118 euro. E tu non ce la fai più, Aldo? Ma controllando ho visto che c'è un transistor che non dà segni di vita, controllando col tester, ora si anche, ma chissà se si trova anche il transistor qua, non lo so, il transistor 28 26, 2SC 28 26, se ricordo bene la sigla, e dunque è probabilmente proprio quello, è proprio quello che non ho, perché è un transistor di trasmissione, vabbè comunque. Ma non so se ne vale la pena. Sì, potrei tentare di toglierlo col transistor, cercare di comprarlo e montarlo, se va va, se non va pazienza. Però tu pensi che ne vale la pena già, a spedirlo non ne vale la pena, perché minimo per la spedizione ci vorranno, tra andate e ritorno ci vorranno non meno di 30 euro. Più la riparazione, fanno che te prenda, anche se tu dovessi prendere una misiglia a livello di 50 euro, sono 50 più 30 sono già 80, tanto vale aggiungere la differenza e te lo compare di nuovo, te lo sto dicendo, costa 118 euro, nuovo, senza nemmeno farti pagare il trasporto, invece a Sesta Liguria 140 euro da quello di Serra Secca. Capito? Sì, è la farmacia, se lo sappiamo. È la farmacia quella, che il lineare che costa 55 euro, lo vende 98 euro, con lo sconto 90 euro, che cazzo sconto mi fai? Che 90 euro mi devi pagare oro per quello che costa. Quindi non conviene. Non conviene, no. Se lo vuoi me lo conviene, ci mancherebbe. Ma io anni fa, che anche quello fa parte di quella, di quel fulmine che mi aveva bruciato quattro cose, anche quello fa parte di quella volta lì, e l'avevo pagato 60 lì, l'avevo pagato, ma sono già passati 3 anni, una cosa del genere più o meno già, e oggi ne vuole 90, lì c'è Macco da Candennato, per carità, anzi 98, poi dove stanno le gabuisole? Oh, ma io non, quello non lo comprerò, nemmeno una resistenza comprerò mai da quello, a parte il fatto che non mi piace come persona, ma lo randaggio, cosa vuoi che ti dica già? Tanto le tu. Oh, solo quando è triste viene la disperazione, se viene. E se con le guise lì, viene poco di mondetta e di cosa. Poi lui ti fa stare mezz'ora lì, ti fa stare, va a cercare le cose e poi ti dice che non c'è. Ma va fatta ammazzare, ma non lo sai a mia moglie se ce l'hai o non ce l'hai. O perlomeno entra e esci in un attimo, invece mi vai a mezz'ora, come c'è un salame lì aspettando che tu mi dia una risposta e poi questa risposta me la dai anche negativa. Oh, poi adesso non fa, c'è la fila fino a fuori, devi stare a fare la fila lunga. Poi magari non ce l'hai, hai ragione, non c'è la roba che c'è. No, magari si trova, logico, se vai d'accordo, da Fusaro di più, anche alla DPC. Ma tanto che te la faccia pagare, ma c'è da Fusaro costa 25 euro, là costa un euro, capito? Aspetta, dimmi una cosa, ma tu che sei pratico di Porto Torres, a Porto Torres ancora c'è quel negozio di elettronica di Vecchioni, una volta c'era un negozio di Vecchioni a Porto Torres. Allora di elettronica ce n'è uno solo dove c'è Tromboli, ce n'era uno, che poi abbia chiuso, non lo so. Prima c'era Cennedo, quello che trattava anche articoli per imbarcazioni, eccetera, eccetera. Quello non c'è più. Perché una volta c'era anche Melchioni, c'era lì a Porto Torres, mi ricordo benissimo, ricordo. Diciamo che qualcosina come attrezzatura ce ne aveva, adesso non ho più sentito da nessuno parlare di Melchioni e Porto Torres, ma comunque, vabbè, comunque non è un problema. C'è Amazon che qualsiasi cosa che chiedi ti dà tutto, qualsiasi cosa che tu chiedi ti dà. Tu pensa che ho comprato le batterie per il macchinario, per il trapano abitatore professionale, quello di marca Makita, qui le batterie, due batterie qua volevano roba di 80 euro che me le avrebbero fatte arrivare le stesse originali da 1,3 l'una, due batterie, no? Perché ne devi avere due, una che da volo e l'altra che è sotto carica, in modo che quando si scarica non perdi tempo e non fai altro che cambiare la batteria e continua a lavorare, no? Beh, da Amazon ne ho preso due, ricordati, originali sono 1,3 l'una, eh? Ne ho comprato due da Amazon, le ho pagate 34 euro tutti e due, in due giorni mi sono arrivati, però ogni batteria anziché avere 1,3 ha 3 ampere l'una, 3 ampere, si può immaginare, più del doppio come potenza, due giorni e sono arrivati 34 euro, da 80 e oltre, se voleva quel Camel che c'è lì, o Camel come si chiama, quel negozio di pedaliera, Camel, lì dove c'era una volta Portobello, te ricordi, prima della curva, di fianco lì alla pasticceria o panetteria che forse ci fosse, lì, boh, non lo so, comunque già mi è capito dopo. Ex grassi, cioè ex, i grassi ci sono, e ho capito anche chi su, quando c'avevo il negozio alle Conce ti faceva pagare per dire il baracchino, ti faceva pagare bene, dicevi ma scusa se su internet ma io pago le spese spedizioni, sì ma tu le spese spedizioni tu le fai pagare su ogni apparecchio, tu la roba la prendi a globo, prendi tutto il globo intero e gli paghi una cazzata e poi gli fa pagare con la cazzata e non paga su ogni apparecchio, ma stai scherzando, non mi la giubilato. Era caro anche quello, infatti già fallito, è durato poco. Io gli avevo preso la mantovacina, 120, qualche cosa del genere, 125, una cosa del genere. Ho preso la mantova, niente, quando l'avevo piazzata, la prima mantova che ho avuto. E vabbè, comunque, niente. Io fra poco dovevo andare perché è arrivata mia figlia e dobbiamo andare a cena fuori. Stamattina sono andato a prendere l'aeroporto, adesso andiamo tutti quanti insieme a mangiare, mi sta mandando i messaggi, scusa. Giulio, dai, ti devo salutare che devo prepararmi per andare, dai. Ci sentiamo, buona serata, a domani. Ok, ciao, ci sentiamo, ciao, alle prossime.